Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È venerdì 27 di luglio 2012, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questa soprattutto è l'ultima puntata del Meglio di Voi Siete Qui. Per tutto il mese di luglio vi ho raccontato, vi ho riproposto due storie al giorno tra tutte le storie che sono arrivate durante l'arco della stagione. Chiudiamo oggi, da lunedì a quest'ora andrà in onda Summertime e noi ritorneremo invece ai primi di settembre con la seconda stagione di Voi Siete Qui. Ed è per questo che quindi mi ritrovo a riproporvi ancora per l'ennesima volta a farvi la mia proposta. La mia proposta per l'estate è questa qui. Prendetevi mezz'ora di tempo. Poi magari diventa di più, ok? Però se vi dico un'ora vi sembra troppo. Prendetevi mezz'ora di tempo, vi mettete davanti al computer e pensate a un episodio della vostra vita, uno qualunque che riguardi la vostra infanzia, che riguardi la vostra età adulta, che vi sia accaduto ieri, l'altro ieri o 5 anni fa, che sia divertente oppure no, che sia fondamentale oppure no. E scrivetelo in una pagina. L'importante è che non sia una semplice pagina di diario, che non siano delle riflessioni. Quello che facciamo a Voi Siete Qui è proprio raccontare un episodio che in qualche modo racconta qualcosa di voi. Mi ricordo ad esempio che quando abbiamo avuto ospite e autore di un racconto, una persona che nella vita è manager di un'azienda molto importante, ma quello che ci ha raccontato è stato il primo concerto di Bruce Springsteen che è andato a vedere. E ricordo che lui diceva: quella è una parte quasi nascosta di me, però è una delle parti più importanti della mia vita. Ecco, cerchiamo di fare questo, cerchiamo di raccontare una piccola storia vostra che vi racconti, anche se è nascosta e anche se è minore nella vostra vita. Voi siete qui, @radio24.it. Per tutta l'estate noi continuiamo a raccoglierle, Margherita li mette da parte, noi li leggiamo e poi ci facciamo una puntata. E ogni giorno c'è quindi una storia diversa, ogni giorno c'è una persona diversa. Vi ripeto, voi siete qui, @radio24.it. Potete andare sul sito di Radio 24 e trovare tutto quello che vi serve. Alla pagina di Voi Siete Qui c'è la mappa che andremo a comporre a ripartire da settembre, che è già piena di tutti i puntini rossi della scorsa stagione. Ci sono i podcast da riascoltare di tutto l'anno e c'è l'ebook da scaricare se non l'avete ancora fatto. Chiudiamo però la puntata di oggi con due racconti molto molto belli. Il primo è nato in onda al mese di giugno e parla di questi amici immaginari. Laura è, non ricordo più, un magistrato, mi pare che fosse un giudice. Era un giudice, non ricordo se era un magistrato o un giudice. Comunque lo scopriremo, ce lo racconterà lei. Un giudice della Corte dei Conti, mi pare, esattamente, sì. E parla di quanto la nostra mente riesca ad immaginare delle cose che non ci sono, e quell'immaginare le nostre, quelle cose che non ci sono, spesso ci sia molto utile. È una piovosa mattina di primavera. Sto andando a scuola conciata in quella buffa maniera in cui i grandi riuscivano a vestire i bambini negli anni 70. Accanto a me cammina elegante e potente la mia tigre. Quando arrivo a scuola si sdraia accanto al mio banco e aspetta che le lezioni finiscano. La maestra e i compagni non ci fanno caso, e come potrebbero d'altra parte. Harry è invisibile a tutti tranne che a me. Oggi piove, quindi Jane, la magnifica cavalla bianca che di solito uso, è dovuta restare a casa. Mentre stamani la salutavo, mia sorella, quella grande, mi ha detto: «Quella non è un cavallo, è una bicicletta». Poveraccia. Si vede proprio che ormai è un'adulta. Poter fuggire ogni tanto dalla realtà è sempre stato un modo di passare il tempo, di divertirmi e di rimandare anche qualche volta qualche problema. Una cosa che ti fa molta compagnia, che ti consente anche di esplorare il tuo subconscio, di vivere certe emozioni in una maniera più indiretta, secondo me fa molto bene ai bambini avere un mondo immaginario. La mia è stata un'infanzia pura e assoluta, popolata di esseri meravigliosi e altri tremendi, di grandi paure per piccole cose e di immense gioie quotidiane. C'era soprattutto tanto tempo per giocare. Non so se sia stata un'infanzia felice. Tutto sommato ricordo un certo senso di frustrazione, ma di tante cose che mi sono rimaste c'è questa strana capacità di far finta,